Il Logos è stato pedagogo per mezzo della legge e dei profeti. La benefica asprezza della senape e la dannosa dolcezza del miele. Abbiamo dunque esposto, secondo le nostre possibilità, il modo con cui egli ama l'uomo e lo guida come pedagogo. Pertanto, assai bene, descrivendo se stesso, si è paragonato ad un chicco di senape, alludendo alla natura spirituale e feconda del Logos che viene seminato, alla sua potenza già immensa eppure ancora crescente, e infine alla benefica asprezza dei suoi castighi, che feriscono e insieme purificano. Per mezzo di una piccola cosa, il chicco dell'allegoria, egli concede all'intera umanità un dono grandissimo, la salvezza. Come il miele, che pure è dolcissimo, genera bile, così la bontà può generare disprezzo in chi la riceve, e questa appunto è la causa dei peccati. La senape, invece, che è acre, diminuisce la bile, ossia la collera, e arresta l'infiammazione, che è l'orgoglio. Da questo Logos, dunque, viene la vera salute dell'anima e una buona complessione per sempre. Anticamente il Logos ci guidava, come pedagogo, per mezzo di Mosè, poi per mezzo dei profeti. Del resto anche Mosè era un profeta. La legge, infatti, è la pedagogia per fanciulli stizzosi e difficili. Dopo essersi saziati, dice, si alzarono per andare a giocare. E usa il termine saziati e non nutriti, per designare l'irragionevole pienezza di cibo. Pedagogia della legge e del Logos. Dopo essersi irragionevolmente saziati, si diedero ad irragionevoli giochi, e per questo la legge e il timore venivano loro dietro, per troncare i loro peccati ed esortarli ad azioni rette, predisponendoli così ad obbedire piamente e ad essere docili al vero pedagogo, essendo già egli stesso l'unico e il medesimo Logos, che si adattava in base alle necessità. La legge fu data, dice Paolo, come pedagogo che conducesse a Cristo. Ciò dimostra chiaramente che uno solo è il nostro pedagogo, vero, buono, giusto, figlio a immagine e somiglianza del Padre, Gesù, Logos di Dio, e a questo pedagogo Dio ci ha affidati, come un padre amorevole che dà i suoi figli in affidamento a un pedagogo degno di questo nome. Ha affermato infatti esplicitamente: «Questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo». Ed è certamente ben degno di fede il divino pedagogo, ornato delle tre doti più belle, la scienza, la benevolenza e l'autorevolezza. Ha la scienza, perché egli stesso è la sapienza del Padre. Ogni sapienza viene dal Signore ed è con Lui in eterno. Ha l'autorevolezza, perché è Dio e Creatore. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto. Ha infine la benevolenza, perché Egli solo ha consegnato se stesso come vittima per noi. Il buon pastore dà la sua anima per le pecore, ed Egli davvero l'ha data. La benevolenza, in vero, non è altro che desiderare il bene per il proprio prossimo, in considerazione di Lui e non di noi stessi. Con una disposizione simile a quella di un padre, il pedagogo usa sia la severità che la bontà. Imitazione del Logos e obbedienza ai suoi precetti. Da quanto detto, possiamo concludere dicendo che il nostro pedagogo, Gesù, ha tracciato per noi il modello della vita vera e ha guidato, come un pedagogo, l'uomo che è in Cristo. La sua attitudine non è né troppo severa né troppo permissiva a causa della sua bontà. Dà comandi, ma infonde in essi un carattere tale da renderceli praticabili. E certamente, mi pare, è lui che ha plasmato l'uomo dalla polvere, l'ha rigenerato con l'acqua, l'ha elevato con lo spirito, l'ha educato con la parola, l'ha guidato con santi precetti verso l'adozione filiale e la salvezza, così da riplasmare l'uomo di terra, trasformandolo in uomo santo e celeste e dare in tal modo compimento a quel che sta scritto: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E questo che Dio ha detto, Cristo lo ha adempiuto perfettamente, mentre di ogni altro uomo si può dire solo ad immagine e non a somiglianza. Mettiamo dunque in pratica la volontà del Padre, ascoltiamo il Logos e imbeviamoci del salvifico stile di vita del nostro Salvatore, noi fanciulli del Padre buono e pupilli del buon pedagogo. Ungiamoci con il sempre fresco e incorrotto crisma che dà serenità e profumo, adoperandoci fin da qua giù a vivere una vita celeste, tramite cui divinizzarci. Prendiamo lo stile di vita del Signore e seguiamo le orme di Dio. A Lui solo dobbiamo rivolgere lo sguardo, poiché Egli si prende cura di come la vita dell'uomo possa diventare più sana. Ma Egli ci dispone anche a una vita autosufficiente, sgombra di cose superflue, per prepararci alla vita eterna beata, ci dispone ad una vita da pellegrini, facile da condurre e facile da lasciare, insegnandoci che ognuno di noi è per se stesso la propria cassa delle provviste. Non vi preoccupate per il domani, dice. Chi si è arruolato con Cristo deve abbracciare una vita semplice e autosufficiente, senza servitori e vissuta alla giornata. Veniamo educati, infatti, non per la guerra, ma per la pace. Il Logos è il nostro pedagogo e il nostro medico. In guerra c'è bisogno di prevedere e preparare molto, e il lusso ricerca l'abbondanza. La pace e l'amore, invece, sono due sorelle semplici e senza preoccupazioni. Non hanno bisogno di armi né di assurdi preparativi. Il loro cibo è il Logos che è stato incaricato di guidarci, mostrandoci la strada e educandoci. Da lui possiamo imparare la frugalità, la modestia, un totale amore per la libertà, per l'uomo e per il bene. Insomma, per dirlo in una parola, possiamo diventare simili a Dio, imitandone le virtù. Ma orsù, non risparmiare la fatica e non stancarti. Diventerai tale quale ora neppure speri, e anzi, quale ora neppure potresti immaginare di diventare. Invero, come esiste una formazione tipica dei filosofi e un'altra degli oratori e una dei lottatori, così esiste una specifica nobile attitudine che corrisponde a un proposito di vita amante del bene e che è il frutto della pedagogia di Cristo, in virtù della quale anche le nostre azioni esteriori, il camminare, il riposo, il nutrimento, il sonno, il letto, il regime di vita e ogni altro aspetto dell'educazione, una volta modellate da questa pedagogia, risplendono per dignità e onorevolezza. La formazione che ci dà il Logos, infatti, non è mai tesa all'eccesso, ma è sempre equilibrata. È per questo che il Logos è anche detto Salvatore. Lui, che per dotare gli uomini di una retta percezione delle cose e dar loro la salvezza, ha inventato per essi tutti questi farmaci spirituali. Egli è sempre in attesa dell'occasione favorevole. Rimprovera i torti, mette in luce i moventi delle passioni, estirpa le radici dei desideri irrazionali, prescrive ciò da cui bisogna astenersi e fornisce ai malati tutti gli antidoti salutari. Questa, infatti, è l'opera di Dio più grande e più regale: salvare l'umanità. Ora, se il medico non dà alcun consiglio per la salute, i malati se ne lamentano. Allora, come non confessare tutta la nostra gratitudine nei confronti del divino pedagogo, il quale non rimane in silenzio e non negligge quelle nostre disobbedienze che ci portano alla rovina, bensì le denuncia apertamente, recide fin dall'inizio i desideri che ci spingono alla trasgressione e ci istruisce con consigli adatti per guidarci verso un retto stile di vita. Dobbiamo essergli pienamente riconoscenti. Quale altro compito, infatti, ha questo animale razionale che è l'uomo, se non quello di contemplare il divino? Dico però che bisogna anche osservare la natura umana e vivere come ci indica la verità, amando e seguendo sia il pedagogo in persona che i suoi precetti, al di sopra di tutto, in quanto essi si accordano l'uno all'altro e si armonizzano fra loro. A loro immagine anche noi dobbiamo vivere armonizzandoci totalmente al pedagogo, cioè adeguando al Logos il nostro agire. Come il retto agire è conforme al retto Logos, così il peccato è contrario al Logos. Corrispondenza tra il Logos Cristo e il Logos ragione. Tutto ciò che va contro il retto Logos è peccato. Così infatti i filosofi hanno ritenuto di poter definire le passioni più generali. Il desiderio come una tensione non subordinata al Logos, la paura come un'avversione non subordinata al Logos, il piacere come un eccitamento dell'anima non subordinato al Logos, il dolore come una stretta dell'anima non subordinata al Logos. Se dunque l'insubordinazione al Logos genera il peccato, allora necessariamente l'obbedienza al Logos, che chiamiamo fede, produrrà ciò che si suol definire il dovere. La virtù, infatti, è una disposizione dell'anima in sintonia con il Logos in tutte le circostanze della vita. La filosofia stessa, poi, e questa è la cosa più importante, è da essi definita una ricerca della rettitudine del Logos, per cui ogni mancanza, in quanto procede da un errore nei confronti del Logos, viene, per necessaria conseguenza, ad essere chiamata peccato. È per questo che quando il primo uomo peccò e disobbedì a Dio, fu reso simile alle bestie. Avendo cioè peccato contro il Logos, l'uomo viene giustamente considerato senza Logos e quindi assimilato alle bestie. Perciò anche la sapienza paragona l'uomo ad una bestia senza Logos, dicendo: uno stallone voluttuoso e adultero, e aggiunge: nitrisce ogni volta che qualcuno gli monta in groppa. Ossia dice che l'uomo ancora non parla, ma solo nitrisce, poiché chi pecca contro il Logos non è ancora dotato di parola, Logos, è un animale irrazionale, Alogon, dedito alla concupiscenza, e a lui montano in groppa tutti i piaceri. L'azione retta, invece, che è obbedienza al Logos, i seguaci degli stoici la chiamano il conveniente e il dovere. E in vero il dovere è di per sé conveniente, e l'obbedienza da cui consegue si fonda su precetti, i quali, essendo identici ai comandamenti, hanno per fine la verità e conducono, come fa un pedagogo, verso il termine ultimo delle cose desiderabili, cioè verso quello che viene concepito come il fine. Ora, il fine della religione è il riposo eterno in Dio, e la nostra fine è l'inizio dell'eternità. È necessario obbedire ai precetti del Logos. Il retto agire della religione compie, per mezzo delle opere, quello che è il dovere. Perciò è chiaro che il dovere consiste nelle azioni e non nelle parole. L'agire del cristiano è infatti l'opera di un'anima conforme al Logos, che giudica con prudenza e aspira alla verità. Opera messa in atto tramite il corpo, compagno di natura e compagno di lotta dell'anima. E il dovere che ne consegue consiste nell'avere in questa vita una volontà unica con Dio e Cristo, un retto agire indirizzato alla vita eterna. In verità, la vita cristiana, alla quale il pedagogo ci sta ora addestrando, è un insieme organico di azioni secondo il Logos, ossia un mettere in pratica in maniera irreprensibile ciò che il Logos ci ha insegnato, e tale pratica è chiamata fede. Questo insieme organico è costituito dai precetti del Signore, i quali, essendo sentenze divine, ci sono stati prescritti come comandamenti spirituali, vantaggiosi per noi stessi e per il prossimo. Essi, per così dire, rimbalzano verso di noi, come la palla che rimbalzando ritorna a colui che l'ha lanciata. Perciò i doveri, comandati da Dio e ordinati alla salvezza, sono necessari nel piano della divina pedagogia. Ma come tra le cose necessarie alcune concernono solo la vita di quaggiù, mentre altre danno ali per volare da qui alla vita beata lassù, Così anche tra i doveri, alcuni sono stabiliti in funzione di questa vita, altri in funzione della vita beata. Ora, le cose che ci vengono insegnate per la vita comune e terrena sono note quasi a tutti. Quelle invece che concernono la vita beata e dalle quali poi deriva anche la vita eterna, ci sia ora permesso prenderle sinteticamente in esame, raccogliendole dalla scrittura stessa.